Al lettore ricordo che capita, a volte, che la persona che scrive sia molto diversa dalla persona che vive. Quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti ma alberi, alberi infiniti. Quando sei qui vicino a me, questo soffitto viola, no, non esiste più. Io vedo il cielo sopra noi che restiamo qui, abbandonati come se non ci fosse più. Niente più, niente al mondo suona. Un'armonica mi sembra un organo che vibra per te, per me, su nell'immensità del cielo. Suona un'armonica, mi sembra un organo che vibra per te, per me, su nell'immensità del cielo, per te e per me. Mi hanno chiesto di parlare dei miei amori. I miei amori cominciano nei tempi futuri. I miei amori non sono mai esistiti, perché loro non ne sapevano niente. Oppure non sapevo niente io. E ci siamo amati in silenzio e in tempi diversi. Il barometro naturalmente ero io. I veri amori sono delle invenzioni, sono dei sogni, sono dei parametri di poesia. Se questo o quell'altro uomo siano veramente esistiti, se abbiano toccato la mia carne, questo è un fenomeno secondario. Mia madre, guardandomi, diceva: «Hai dei fianchi ben piantati. Sarai una buona terra». Io studiavo il primo anno di medicina. Volevo una laurea. Volevo fare il medico. Io nacqui destinata a soffrire, mi auguravo di morire, ma la vita fu feroce e mi lasciò sopravvivere. La cultura non deve meravigliare che chi la prende e mai gli altri. Penso che Gesù mi fosse inferiore per grandezza e tolleranza. due poeti non si temono mai, perché sanno che sotto la loro forza c'è una vulnerabilità così silenziosa da far pensare sotto fondi marini. Ci sono notti che non accadono mai. Ho una fame chiara, violenta, una voglia di amore sugli occhi. Tutti noi siamo violenti perché siamo incatenati. A 30 anni si muore d'amore, a 60 di lunghe attese. Io sono malata di tempo musicale e nelle mie sospensioni cosmiche vanno a morire tutti i miei amori. E pensare che il no di una donna può fare un'intera generazione di letterati. E ragionar d'amore vuol dire perdere tempo. Ringrazio i miei nemici perché sono i più attenti a ciò che scrivo. Ecco, l'unica cosa che mi piacerebbe veramente di tenere in pugno: il suono dell'ombra. Mi sono innamorato di te perché non avevo niente da fare. Il giorno volevo qualcuno da incontrare, la notte volevo qualcosa da sognare. Gli amori non sono cose eterne e segrete. Gli amori sono cose impossibili, cose che non accadono, cose da niente, oppure cose da tutto. Gli amori non hanno sostanza, ma una composizione eterea che passa addirittura dal cuore. Mi sono innamorato di te perché non potevo più stare solo. Il giorno volevo parlare dei miei sogni, la notte parlare d'amore. Ed ora che avrei mille cose da fare, io sento i miei sogni svanire, ma non so più pensare a nient'altro che a te. Io ho avuto grandi amori distruttivi come catastrofi, che mi hanno presa, violentata e poi abbandonata sul greto della vita. Mi sono innamorato di te e adesso non so neppure io cosa fare. Il giorno mi pento d'averti incontrata, la notte ti vengo a cercare. Nel recinto degli uomini, Aldo era il più lungo e allampanato, con due occhi immensi e stravolti. Era visibilmente pazzo, ma con un che di infantile e aggraziato che non poteva non commuovermi. Insieme ad altri ammalati, stava dietro un recinto di reti e gridava tutto il giorno a squarciagola, quasi che ce l'avesse con il cielo che l'avevano messo lì dentro. Un giorno ottenni che lo si lasciasse andare per qualche ora. Di fatto era un uomo che non faceva male a nessuno. si limitava a gridare e a imprecare. Pieno di serenasse com'era, malgrado fosse molto giovane, Aldo non aveva alcun senso della sua mascolinità e con le grosse mani non faceva che tagliare e strappare l'erba e portarsela alla bocca come un cavallo forsennato che avesse fame. A me chiedeva solo sigarette e mi diceva, guardandomi dritto negli occhi, «Sei dolcissima». Poi mi carezzava teneramente la pelle e guardava se mai sorgesse in me qualche visibile emozione. «Ma tu sei donna?» mi chiese una volta. «Certamente», risposi io. «Non mi sembra. Guarda, io sì che sono un uomo». E tirò fuori il suo pene dritto come una alabarda che subito mi impaurì. «Non devi fare questo, Aldo. Ricordati che ti tolgono il permesso». Aldo si guardò in giro e assentì con la sua grossa testa. «È vero». Comunque, continuava a guardarsi in basso, verso i calzoni. «Ma io sono un uomo», continuava a ripetere. «Certo», gli dicevo io, «che sei un uomo. Solo che adesso devi pensare a curarti». «E i miei figli?» proseguiva lui. «I tuoi figli sono in mani buone, e anche tu, perché io ti voglio bene». Allora mi abbracciava e rideva forte, e mi faceva rotolare per terra, e mi impasticciava di baci che non avevano nulla di adulto. Erano baci di un bambino teneramente commosso e felice di qualche caramella. Quando lo raccompagnai in reparto, Aldo era visibilmente fiero di starmi accanto. «Vede», diceva al suo caposala, «questa è la mia donna». E mi facevo un largo inchino che pareva una genuflessione. Io annuivo ridendo. In fondo, piaceva anche a me di avere un amico così sincero. E poi forse Aldo non era più tanto malato. Ma un giorno che mi portò delle rose bianche, mi disse tra le lacrime, «Sai, Alda, mi trasferiscono. Dicono che sono inguaribile». «Non è possibile», dissi io. «Tu devi stare bene per i tuoi figli». Ma dovetti arrendermi alla realtà. E quella volta piansi con profondo dolore per la sorte di Aldo, per la sorte di tutti coloro che non potevano sconfiggere quel terribile male. «Caro dottore, com'è triste essere vuoti di dentro. Fuori c'è tanta musica, tanta aria da respirare, e l'immobilità del cuore è la cosa più arida e inumana che esista. Non so perché le scrivo queste cose. Sono appena le 4 e tutti sono in piena efficienza. Io non vedo l'ora di andarmene a letto per dimenticare tutto, la mia impotenza, la mia incapacità di ricevere e di donare. Tutto, insomma». Pregherò per te, che è la notte nel cuore, e se tu lo vorrai, crederai. Io lo so perché tu la fede non hai, ma se tu lo vorrai, crederai. Non devi odiare il sole, perché tu non puoi vederlo, ma c'è, ora splende su di noi, su di noi. Dal castello del silenzio egli vede anche te, e già sento che anche tu lo vedrai. egli sa che lo vedrai solo con gli occhi miei, ed il mondo la sua luce riavrà. Io t'amo, t'amo, t'amo. Questo è il primo segno che dà la tua fede nel Signore, nel Signore, nel Signore. T'amo, t'amo, t'amo. Questo è il primo segno che dà la tua fede nel Signore, nel Signore. La fede è il più bel dono che il Signore ci fa per vedere Lui, e allora tu vedrai, tu vedrai, tu vedrai, vedrai. E, pur tuttavia, quella io l'ho chiamata Terra Santa, proprio perché non vi si commetteva peccato alcuno, proprio perché era il paradiso promesso, dove la mente malata non accusava alcun colpo, dove non soffriva più, o dove il martirio diventava tanto alto da rasentare l'estasi. Sì, la Terra Santa. E noi vi eravamo immersi in quelle latrine puzzolenti, dalle albe, ma non vedevamo mai un'alba al tramonto più cieco. Quando in anticipo sul tuo stupore verranno a chiederti del nostro amore, a quella gente consumata nel farsi dar retta un amore così lungo, tu non darglielo in fretta. Non spalancare le labbra ad un ingorgo di parole, le tue labbra così frenate nelle fantasie dell'amore. Dopo l'amore così sicuro a rifugiarsi nei sempre, nell'ipocrisia dei mai, non sono riuscito a cambiarti, non mi hai cambiato, lo sai. E dietro ai microfoni porteranno uno specchio per farti più bella e pensarmi già vecchio. Tu regalagli un trucco che con me non portavi e loro si stupiranno che tu non mi bastavi. Pure che il potere io l'ho scagliato dalle mani, dove l'amore non era adulto e lasciavo graffi sui seni. Per ritornare dopo l'amore alle carezze dell'amore era facile ormai. Non sei riuscita a cambiarmi, non ti ho cambiata, lo sai. consigli che i tuoi occhi me li ha ridati sempre. Come fiori regalati a maggio e restituiti in novembre. I tuoi occhi come vuoti a rendere per chi ti ha dato lavoro. I tuoi occhi assunti da 3 anni. I tuoi occhi per loro. Ormai buoni per setacciare spiagge con la scusa del corallo. Per buttarsi in un cinema con una pietra al collo. E troppo stanchi per non vergognarsi di confessarlo nei miei, proprio identici ai tuoi. Sono riusciti a cambiarci. Ci sono riusciti, lo sai. Ma senza che gli altri ne sappiano niente. Dimmi senza un programma, dimmi come ci si sente. Continuerai ad ammirarti tanto da volerti portare al dito. Farai l'amore per amore o per avercelo garantito. Andrei a vivere con Alice che si fa il whisky distillando fiori, o con un Casanova che ti promette di presentarti ai genitori. O resterai più semplicemente dove un attimo vale un altro, senza chiederti come mai. Continuerai a farti scegliere. Finalmente sceglierai. Amore mio, vorrei che tu venissi a vedermi stasera qui, nel mio lettino tutto bianco. E sto pensando a te. Sto pensando alle rose rosse che mi hai dato ieri. Ho qui davanti una rivista, ma non la leggo. Il pensiero di te mi appaga molto di più. Hai mai pensato che ci si possa amare come le colombe? Io sì. Oh, se ti avessi qui vicino, contro il mio grembo. Oh, l'amore è fatto anche di questo. E perciò ti bacio e ribacio sui tuoi bei capelli neri. Oh, Pierre, basterebbe poco a morire. Vivere qui dentro è terribile. E io, morta, volerei da te per sempre. E tu mi terresti come un uccellino piccolo piccolo e saresti il mio buon carceriere. Mi ami tu? Non mi hai ancora mandato un biglietto, ma io ogni sera ti scrivo lunghissime lettere, Pierre, e su quelle lettere piango. L'infermiera, quando vede le mie lacrime, pensa che io sia depressa. E invece no. Piango di gioia e piango di amore, perché io e te siamo due esseri felici nella nostra nudità. Siamo come Adamo ed Eva. È possibile, Pierre, scrivere di queste lettere in manicomio? Ma quanta pace c'è qui dentro. E poi nessuno che ti guardi e ti ascolti. Oh sì, Pierre, proprio qui dentro, credimi, è venuto il momento di amarci. I poeti lavorano di notte, quando il tempo non urge su di loro, quando tace il rumore della folla e termina il linciaggio delle ore. I poeti lavorano nel buio, come falchi notturni od usignoli dal dolcissimo canto, e temono di offendere Dio. Ma i poeti, nel loro silenzio, fanno ben più rumore di una dorata cupola di stelle. È vero, credetemi, accaduto di notte su di un ponte, guardavo l'acqua scura con la dannata voglia di fare un tuffo giù. D'un tratto qualcuno alle mie spalle, forse un angelo vestito da passante, mi portò via dicendo così. Meraviglioso, ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso, meraviglioso. Perfino il tuo dolore potrà guarire poi, meraviglioso. Ma guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare. Tu dici non ho niente, ti sembra niente il sole, la vita, l'amore. Meraviglioso, il bene di una donna che ama solo te, meraviglioso. La luce del mattino, l'abbraccio di un amico, il viso di un bambino, meraviglioso. Meraviglioso, ah. Amore giovane, nelle corse sui prati accanto all'erba felice, offri ardori di fiori alla morte. Trovi una rosa anelante quasi vicino a terra. Le sue tempie sfiorite da poco dentro le zolle diventeranno vermi di ringhiera. Su questa rosa tu ti attardi e pensi che cosa sia il destino, che cosa potrebbe mai strappare alla morte quella mistica rosa d'autunno. Forse la stessa religione, forse un carme desolato, o forse ancora un tentativo di amore infantile. E non puoi, nella tua vaga giovinezza, pensare alla morte nella vita. Tu, che divori il tempo con le spalle. Ma guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare. Tu dici non ho niente, ti sembra niente il sole, la vita, l'amore. Meraviglioso. Nai nai nai nai nai nai nai nai nai nai nai nai nai. La notte era finita e ti sentivo ancora, sapore della vita, meraviglioso. Meraviglioso. Questa pura essenza della sostanza e del suono, questo embrione di parola limpida, questo tocco segreto, sei tu, cristallo. Mobile come le onde sonore, trasgredisci ogni silenzio, e rapido e solo percuoti il mio azzurro. Cristallo, ti bevo nell'alba, candore della persona, candore del mio segreto, candore di sogno. E io sono la cicala, piccola, grassottella, canterina. Per la formica, la cicala è una povera sciocca. Lei però, a furia di lavorare, si è ridotta il cervello come la rotellina di un grosso ingranaggio. Ma le sfugge totalmente l'idea di Dio, che io invece coltivo nel mio cuore. A Dio e al creato, io canto le mie canzoncine estive. E anche se poi rabbrividisco di freddo nell'inverno, che importa? Che importa? Che importa? Che importa? Che importa? Che importa? La cosa che conta per me è vivere il momento che passa, essere circonfusi di luce nell'aria del meriggio. A me importa questo, della mia morte corporale invece ben poco, ben poco. Ben poco, ben poco, ben poco. E quando d'inverno vado a bussare alla porta della formica, mi vedo cacciata fuori a vituperi. Povera sciocca, crede di avere la supremazia perché sta al calduccio con tutti i viveri dentro la casa. Povera micragnosa. Ma se io muoio stecchita, avrò una sepoltura degna sotto la neve, perché il pensiero mi è rimasto libero e io, perché no, credo nell'aldilà degli insetti. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Perché lasciate vostra madre sola? Ferma in un canto, come una moneta da spendere, senza darle il buongiorno e metterle un lume sulla parete che guidi i suoi passi stanchi. Perché non andate a vegliare la sua solitudine di vecchia, che pensa che il letto è vuoto da molti anni e le coperte scendono su un pavimento ormai senza livore? Perché non sfiorate i suoi pensieri di carne, da cui siete nati? Perché in manicomio ho messo fonde radici al fine di pensarvi. C'è gente che ha avuto mille cose, tutto il bene, tutto il male del mondo. Io ho avuto solo te. Non ti perderò, non ti lascerò, per cercare nuove avventure. C'è gente che ama mille cose e si perde per le strade del mondo. Io che amo solo te, della mia gioventù. Lascerò per cercare nuove illusioni. C'è gente che ama mille cose e si perde per le strade del mondo. Mi fermerò, ti regalerò quel che resta della mia gioventù. Nella mia mente malata, i figli dovevano necessariamente far parte del mio corpo, del mio io, e non potevo prevederne un altro che fosse al di fuori del mio centro focale. Finché i miei figli li portavo in grembo, tutto poteva rientrare nella normalità. Ma una volta che li mettevo al mondo, mi riallacciavo inequivocabilmente al mito di Cronos che divora la propria progenie. E se qualche volta pensavo ai miei figli, lo facevo come se fossero distanti non so quanto dal mio pensiero. Ma nel mio cuore erano invece ben vivi e presenti. La mia figura di madre era quanto mai incerta. Alle volte agivo come una bambina. Alle volte mi dimenticavo dei miei fanciulli e diventavo io stessa la figlia di me stessa. Una volta mia figlia maggiore mi disse: «Da che sei ricoverata qui dentro, ho imparato a farti da madre». La cosa mi colpì come una fucilata in pieno petto. Come osava dirmi una cosa simile? Anche se minorata, le mie viscere erano comunque mature per una generazione e lei ne era stata la prima conferma. Da quel momento la odiai e non volli più che venisse a trovarmi. Mi pareva inferiore alle mie aspettative. Dei miei molti rami, delle mie figlie adorate, io non so nulla. Quando le vedo le spettino. Hanno chiome grondanti e precise. E loro si arrabbiano come puledrine avverse. Delle mie quattro figlie. Io non so nulla. Se non che le sento nelle mie viscere. Per far funzionare quella macchina prodigiosa che è l'anima corpo del poeta, bisogna andare in psichiatria. Gli intellettuali in questa società sbagliata muoiono di inedia, di crepacuore e di stanchezza. Ma sapete cos'è la follia? per me è stato un grande, inconfessabile languore amoroso. Un languore talmente doloroso e spastico da somigliare alle doglie doloranti del parto. Senza lampadine è inutile bere al fuoco del delirio, e io di lampade ne ho tre. Il corpo può essere un ostacolo, ma è il portatore dell'anima, la brocca entro cui sta il buon vino. Per adorare l'anima bisogna tener conto del corpo. Io, per vivere, ho bisogno del supporto psichiatrico e tu di quello della fede. Se la realtà è disciplina, diventa canto e non distonia. E quindi l'accompagnamento della musica diventa il suono delle ore del silenzio e dell'attesa dell'incontro rivelatore. Ci promettevano la felicità, la stabilizzazione degli istinti. Ma i nostri istinti erano quelli di tutti, solo deviati dalla mancanza di amore. A volte gli amori sono degli strani riconoscimenti di persone e fatti già incontrati in un'altra vita, vite precedenti, vite di cui è depositato il nostro incontro. Quando la sera me ne torno a casa, non ho neanche voglia di parlare. Tu non guardarmi con quella tenerezza, come fossi un bambino che ritorna deluso. Sì, lo so che questa non è certo la vita che ho sognato un giorno per noi. Vedrai, vedrai, vedrai che cambierà. Forse non sarà domani, ma un bel giorno cambierà. Vedrai, vedrai. No, non sono finito, sai. Non so dirti come e quando, ma vedrai che cambierà. Preferirei sapere che piangi, che mi rimproveri di averti delusa. E non vederti sempre così dolce, accettare da me tutto quello che viene. Mi fa disperare il pensiero di te e di me che non so darti di più. Vedrai, vedrai, vedrai che cambierà. Forse non sarà domani. ma un bel giorno cambierà. Vedrai, vedrai. No, non so finito, sai. Non so dirti come e quando, ma un bel giorno cambierà. Puzzolente in odore nel medesimo tempo, nel senso che chi ne ha voglia ne può fare astrazione, come del male che è in noi. Lo guardo passando lungo le ripe e penso che è facile annegarvicisi dentro, ma in quest'acqua putrida non te ne viene neanche voglia. Non sarebbe una morte bella? E poi tutto il popolo verrebbe a curiosare e non capirebbe nulla dei tuoi patetici fini. Lo guardo da anni, come abbacinata da una malia, da un malefizio. Quante volte avrei voluto lasciarlo dietro le spalle, questo dannato naviglio, con le sue memorie, i suoi sospetti, sue malticenze. Scorre piano, che nessuno se ne avvede, eppure ti fa così male al cuore. È un fiume che non si conosce, eppure noi, gente della plebe, uno per uno, ne portiamo impresso il marchio. È una cosa astratta, eppure è così repentina che addirittura ti danna. È un po' come la presenza del Faust. Ti invoglia la vita e ti fa cadere nel sudiciume. Passo. Se me ne vado, lo guardo con un ghigno feroce di trionfo. Se torno, sento che lui ride, piano, ma con un ghigno altrettanto feroce. Mi ha conquistata da sempre. Qui sono nati e morti i miei. Qui sono nata e morta io. Da qui mi porteranno via un giorno, a braccia, quando sarà venuta la fine. Ma la fine io la incontro ogni giorno qua giù, faccia a faccia con il naviglio. Porta romana bella, porta romana, ci sta le ragazzine che te la danno, ci sta le ragazzine che te la danno, prima la buonasera e poi la mano, e gettami giù la giacca ed il coltello, che voglio vendicare mio fratello, che voglio vendicare mio fratello, e gettami giù la giacca ed il coltello. La via San Vittore l'è tutta Sassi, l'ho fatta l'altra sera a pugni e schiaffi, l'ho fatta l'altra sera a pugni e schiaffi. La via San Vittore l'è tutta Sassi, via Filangieri che na campana. Ogni volta che la suona le na condana. Ogni volta che la suona le na condana. In via Filangieri che na campana. O luna che rischiari le quattro mura. Rischiara la mia cella che è tanto scura. Rischiara la mia cella che a tetra è nera. La gioventù più bella morì in galera. O luna, luna, luna che fai la spia. Bacia la donna d'altri ma non la mia. Amore, amore, amore, amore un corno. Di giorno mangio e bevo, di notte dormo. Ci sono tre parole in fondo al cuore. La gioventù, la mamma e il primo amore. La gioventù la passa, la mamma muore. E resta come un pirla col primo amore. La gioventù la passa, la mamma muore. E resta come un pirla col primo amore. La gioventù la passa, la mamma muore. La mamma muore. La mamma muore. La mamma muore. L'uomo è socialmente cattivo, un cattivo soggetto. E quando trova una tortora, qualcuno che parla troppo piano, qualcuno che piange, gli butta addosso le proprie colpe. E così nascono i pazzi. Perché la pazzia, amici miei, non esiste. Esiste soltanto nei riflessi onirici del sonno e in quel terrore che abbiamo tutti, inveterato, di perdere la nostra ragione.